Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibald, Zibald, Zibald, Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, come sapete, è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese 91.4 FM sul litorale catalano, in streaming all over the world alla web www.contrabanda.org. E infine vi ricordo che ci sono anche i podcast, li potete scaricare dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Oggi 10 giugno, una puntata speciale dedicata a un grande cantautore, a un grande compositore, a un grande artista, ai più purtroppo ancora sconosciuto. Non vi dico chi è, non vi dico come si chiama, non vi dico perché lo dovreste conoscere. Abbiamo 2 ore di tempo per farlo insieme e quindi cominciamo subito con una sua canzone, così magari cogliete il suo particolare timbro di voce, la sua particolare poetica e forma di scrittura, e ci accompagnerà anche una persona per parlare di questo straordinario personaggio. Avere un amore che abbia la stessa importanza della sedia sulla quale dormiamo, nella stanza o nel parco. Un amore come una fisarmonica che continuiamo a suonare, come un tamburello. Un amore come un francobollo da spedire, perché possa arrivare, perché possa giungere. Un amore come una lettera da allontanare, perché possa arrivare a essere archiviata. La lai la, lai la la, lai la la, lai la la, ancora, no basta. Un amore come un elefante, uno zoppo, che lo conduce in mezzo alla musica, come dentro una gabbia. Un amore come un elefante, uno zoppo, che lo conduce in mezzo alla musica, come dentro un bosco. Un amore come una bottiglia di mare e una d'inchiostro per inquinarlo. Un amore come una ragazza di mare e una bottiglia d'inchiostro per inquinarla. La rei la, la ira la, la ira la, la ira la, la ira la, la ira. Lai la la, lai lai la. Un amore come una banca, un amore come a Milano, lontana, lontana, lontana, dove viviamo. Un amore come un armadio dove mettere le bandiere e gli elmetti della guerra passata, della guerra caduta per i giorni, fino al palazzo della pace, alla stamberga della pace, della pace passata in cantina, fino all'hotel della guerra, fino all'alba della guerra. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la basta. Un amore, il primo brano che vi presentiamo di Lucio 48. Qualche settimana fa qui a Barcellona ne avevamo parlato anche qui a Zibaldone, abbiamo organizzato un concerto che si intitola Casa Rambaldi, un viaggio nel mondo di Amilcare Rambaldi, fondatore del Club Tenco proprio 50 anni fa, nel 1972, un viaggio tra i cantautori che Rambaldi ha amato e ha promosso appunto sul palco dell'Ariston di Sanremo, dove si realizza appunto da ormai quasi mezzo secolo il premio Tenco, la rassegna della canzone d'autore italiana. Tra questi cantautori che sono apparsi nello spettacolo Casa Rambaldi c'era anche Lucio 48. Ecco, su di lui molti probabilmente di voi che ci state ascoltando non sapete nulla o sapete molto poco. Quest'oggi andremo a scoprire, parleremo di Lucio 48 e lo facciamo insieme a Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco di Sanremo e ormai un caro amico di Zibaldone. Sergio, innanzitutto bentornato al nostro programma. Buongiorno, grazie dell'invito. Parliamo di Lucio 48. Come cominciamo a parlare di questo speciale, particolare, peculiare, unico cantautore che l'Italia ha avuto tra gli anni 80 e 90? Io direi di parlarne proprio come è venuto, facendo sentire come è venuto il Tenco. Nel 1983 esce il suo primo disco che viene subito premiato. Il suo primo disco è proprio Lucio 48 e si intitola Di mattino molto presto. Vince la targa Tenco. Andiamo ad ascoltare la registrazione di questa edizione del Tenco. Ecco, andiamocela a sentire allora. Di mattina molto presto era il primo disco, come ci ha ricordato Sergio Secondiano Sacchi, di Lucio 48. Siamo all'inizio degli anni 80 e questa è la sua esibizione al Tenco di Sanremo. La targa Tenco è stata assegnata a Lucio 48, che avete visto qui ieri sera, che ora verrà qui a ritirare la targa. Lucio 48. E siccome si tratta di un esordiente, ciao Lucio, siccome si tratta di un esordiente, nessuno meglio di Giancarlo Cesaroni, fondatore, direttore, grande padre del Folk Studio di Roma, che ci ha dato moltissime, nessuno meglio di lui era adatto per consegnare la targa a Lucio 48. Il disco vi ringrazia, anch'io molto. A questo punto Lucio ci eseguirà una canzone dall'album Di mattina molto presto, per il quale si è aggiudicato la targa. Il titolo è Rissosi, Lucio 48. partecipiamo a tutte le risse degne di un coltello e tutte lo sono, il coltello che entra nella bocca e lavora o nella pancia. Questo è il nostro motto, la nostra scritta sui muri notturni di notte. Se ce ne chiedete una, lai lai la, l'aereo, lai lai la. con la gente che scappa, con la gente che si dà da fare, con la gente che sta a guardare o in un angolo a bere o ad avere paura, a bere ad avere paura, paura, paura. Con la gente che chiama polizia e i gendarmi che brindano, vetri rotti, mille occhi dentro il nostro bicchiere, con i tatuaggi sulle guance, con un naso schiacciato che non abbiamo, con una moglie che ci ha lasciato 6 anni e 2 figli da scontare. Saltiamo i muri, saltiamo i muri per dileguarci, ma poi come sempre, poi come sempre, poi come sempre, poi come sempre una ragazza che ci ferma dietro la chiesa, dietro la chiesa, dietro la chiesa, dietro la chiesa, dietro la casa. E poi alla fine della rissa, alla fine della rissa, alla fine della rissa. Ah, mi raccomando, chiamiamoci tutti quanti amore, parallelo, davanti al poliziotto che non si lascia abbracciare, e noi file di rissosi, noi vite da rissosi, scortiamolo per le vie della città con le trombe. Trombe, trombe, trombe, noi, noi file di rissosi qui, noi vite da rissosi là, scortiamolo per le vie della città, con le trombe, con le trombe, con le trombe, con le trombe. Grazie. Di mattina molto presto, il primo disco di Lucio 48, questa canzone si intitola Rissosi, avete sentito anche la voce di Antonio Silva, storico presentatore del Tenco, in apertura a questa registrazione appunto dal palco dell'Ariston di Sanremo dell'inizio degli anni 80. Sergio, visto che insomma dobbiamo cominciare a parlare di Lucio 48, cominciamo proprio da questo primo disco. Certo, questo primo disco lo segnala. Contiene 9 canzoni, 4 sono scritte da lui, musica parole, e cominciano a comparire 2 collaboratori storici che saranno con lui in tutta la sua traiettoria artistica. Uno è soprattutto Piercarlo D'Amato, che era chitarrista, che sarà suo. Suonerà sempre le chitarre nei suoi dischi, sarà sempre un coautore, e Francesco Sartori. Io direi di ascoltarci una canzone scritta interamente da Lucio 48, proprio musica e parole di Lucio 48, che si intitola Entrai in un ristorante. E ecco. Vediamo anche poi perché scegliamo questa canzone. Eh sì, così anche scopriamo un po' meglio la sua poetica, la sua scrittura che era molto tagliente, come vi siete già resi conto, anche la sua voce. Entrai in un ristorante. Mm. perché avevo fame. Entrai per fame e per una finestra, e una donna mi mostrò un'altra finestra. Il suo nome era Anna, e io andai dove mi avevano detto, proprio come ho fatto l'amore con te l'altra notte. Come ho fatto l'amore con te l'altra notte. Come ho fatto l'amore con te l'altra notte. Ma aspettando provai un orecchio nell'orecchio, chiamai l'uomo e dissi: ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, portati via questa roba portati via. E lui se ne andò dal locale con la ragazza che avevo visto per me quella notte. Con la ragazza che avevo visto con me quella notte. Con la ragazza, con la ragazza, con la ragazza. Con la ragazza che avevo visto per me quella notte. Tutti i colori, quasi un arcobaleno. Ehi, aspetta, dissi. Ehi, aspetta, pensai. Voglio venire anch'io, verrò anch'io nelle vostre camere. Basta che voi non entriate nei miei armadi, i miei armadi. Basta che voi non entriate nei miei armadi. Non vi avviciniate, ma loro uscirono senza darmi un minuto di ascolto. E l'ultima cena era così vuota di gente, io mi vergognavo come un matto, come un matto, come un matto. Entrai in un ristorante, Lucio 48, il terzo brano che vi proponiamo, una registrazione live dal Tenco 1984, quando vinse la targa per l'album Di Mattina Molto Presto, era accompagnato alla chitarra dal suo storico collaboratore, un grande musicista, Piercarlo D'Amato, di mestre come Lucio 48. Sergio, ora andiamo ad ascoltare proprio la canzone che dà il titolo a questo primo album di 48. Infatti nella canzone precedente terminava con questi versi: di mattina molto presto, di mattina molto presto, e questa canzone proprio introduce praticamente la canzone che ha questo stesso titolo. Vediamo come Lucio 48 ama amare con sulle citazioni molto nascoste. Ad esempio qui ce n'è una che sfuggirà a molti, quella del sommergibile. è una citazione chiaramente da Piero Ciampi, che nella sua canzone Te lo faccio vedere chi sono sì. io, parla di seguire la fidanzata con l'amata, con il sommergibile. Di mattina molto presto, ancora Lucio 48 che ci accompagna quest'oggi in questo speciale qui su Zibaldone Radio Contrabbanda. Un altro debuttante al suo primo e per ora unico album, Lucio 48. Non è uno pseudonimo, anche perché ha 27 anni, se fate il conto, quindi non può essere nato nel 48, si chiama proprio così all'anagrafe, Lucio 48. Giovane, studioso di letteratura tedesca e secondo me... nei suoi testi questo si sente, lo vediamo qui per la prima volta questa sera. Dopo il primo pezzo in cui sarà accompagnato da un amico alla chitarra, resterà da solo in scena, è una sua scelta, mi spiegava oggi pomeriggio dietro le quinte, proprio per non essere disturbato e per non disturbare la vostra attenzione ai suoi testi, che sono duri e richiedono un ascolto attento e meditato, un personaggio importante, grande secondo me. Lucio 48. Di mattina molto presto vuoi entrare nella mia stanza, dissi aprendole la porta e non vedendo niente. Di mattina presto presto, mattina presto presto, vuoi entrare nel mio sommergibile, dissi aprendole la porta, dissi aprendole la porta e non vedendo il mare, nel ponte, fai come ti fa più comodo, vecchio divano, poltrona, fai come ti va meglio, divano vecchio, poltrona, laira, lai, laira, la, laira. Dissi io sono un suonatore, dissi io sono un suonatore, che ormai non sa più cosa, che ormai non sa più cosa vuol dire musica, e nemmeno suonatore, e nemmeno dire, e nemmeno dire la ira la, e nemmeno suonatore, nemmeno dire, nemmeno volere, nemmeno sapere, nemmeno cosa, e ormai quasi nemmeno dormire. Io sono un suonatore, io sono un suonatore, lai lai lai la, lai lai la la la, ehi lai la. Di mattina molto presto, altro brano di Lucio 48, Sergio Segondiano Sacchi che ci sta accompagnando quest'oggi, che Lucio 48 l'ha conosciuto molto bene in tutte anche le sue partecipazioni al Tenco. Stiamo un po' conoscendo la forma di scrittura di Lucio 48, che era molto particolare. Prima ci parlavi delle citazioni, ma ci sono poi anche tanti rimandi, a volte espliciti, a volte impliciti o nascosti. Sì, anche eccede, alcuni sono talmente nascosti che bisogna fare delle scommesse interpretative, che ci lasciano stessi dubbi. Ad esempio, nella canzone precedente, Entrai in un ristorante, c'era un personaggio che si chiamava Anna. Questo nome ricorre in alcune canzoni di Lucio 48, in alcune esplicitamente, a volte esplicitamente, in altre con dei dubbi. Ad esempio, in questa canzone Lavare il mare si parla di Nancy. Nancy che potrebbe essere a sua volta una citazione da Leonard Cohen, è un'Anna oppure un Agnese? Noi sappiamo che Nancy è in dubbio se sia un nome derivato da Anna oppure da Agnese, ma noi sappiamo anche che uno come Lucio 48, molto spesso scuro, potrebbe addirittura riferirsi alla città di Nancy. In questa canzone parla di bordelli, di anelli, di tutte connotazioni geografiche che rimangono, ci fanno sorgere anche questo interrogativo. Andiamo ad ascoltarci allora questa Lavare il mare e vediamo un po' anche se i nostri ascoltatori si rendono conto se si parla di Anna, di Nancy, di Nancy. Lucio 48. Questo secolo oramai alla fine, carico di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore. Spero, vai. Ci vuole musica da grande orchestra, ci vuole musica, ma grande. Dopo aver buttato a mare grossi pezzi di metallo, quello che restava degli attaccanti giapponesi marinai, cominciarono a lavare con una pompa il mare. Andiamo, andiamo a lavare. Lavare il mare. I marinai cominciarono a lavare con una pompa l'acqua e presto acqua diventò rossa rossa. E là trovammo i pezzi dei corpi e altri pezzi degli occhi dei piloti giapponesi, degli idioti giapponesi. Lai, lai, lai, lai, lai. Andiamo, andiamo a lavare. Lavare il mare. Andiamo, andiamo a lavare. Il sergente raccolse un dito e si prese l'anello. Prima che scendessero le stelle a ordinare di ordinare tutto questo. E la tua lingua così grossa, Nancy, la tua bocca così grande, dietro l'insegna di un bordello, fece sparire anello, fece sparire uccello. Andiamo, andiamo, andiamo a lavare. Grazie. Questa era una canzone, molto probabilmente non so se l'ha capito, ma almeno, siccome dicono che sono un po' contorto, una canzone di Kamikaze, che secondo me può ricollegarsi anche ai nostri padri, che credo molto importanti, per capire un po' com'è la storia adesso. Ecco, all'inizio di questa puntata, Sergio, stavamo parlando di Casa Rambaldi, lo spettacolo organizzato qui a Barcellona lo scorso 28 maggio. Abbiamo nominato spesso il Tenco, abbiamo sentito anche alcune registrazioni proprio al Tenco di Lucio 48 negli anni 80, gli anni ancora in cui c'era Amilcare Rambaldi, fondatore del Tenco nel 72. Bene, insomma, quello che ti volevo domandare, visto che tu c'eri in quegli anni e eri con Amilcare Rambaldi, insomma, nell'organizzazione delle rassegne, quanto amava Amilcare Rambaldi Lucio 48, quanto gli piaceva, quanto no invece? Gli piaceva tantissimo, amavamo tutti Lucio 48. L'ultima volta che è venuto al Tenco ricordo che ho cenato con lui, ho parlato anche di progetti futuri. Sono stato molto legato a Lucio 48, Rambaldi lo ha sempre amato, ci ha sempre creduto molto. E quindi sì, legare il nome di Rambaldi e di Lucio 48 mi sembra più che doveroso. Ora andiamo ad ascoltarci invece una canzone che è una versione recente, proprio cantata allo spettacolo Casa Rambaldi. È una versione in inglese di un brano di Lucio 48, quindi davvero una perla molto particolare. E guarda caso anche qui c'è un capitano di una nave da cui scaricano legno nero, non si sa bene cosa sia questo, che sono i protagonisti di questa canzone, seguiranno le istruzioni, ci sarà un bel movimento. E poi Ean e il capitano fanno l'amore, ecco le due figure che si incontrano, sempre molto misteriosamente, perché avete già ormai imparato a conoscere il linguaggio di Lucio 48 è sempre abbastanza misterioso. They Unload the Blackwood, questo è il titolo tradotto in inglese di Scaricate legno nero, alla voce c'è Wayne Scott. They Unload the Blackwood from the Greek ship, its name is Salvation, her name is Salvation. And when one of its men hangs in the balance, they cut off their arms to the elbow, to throw them in search of the missing, to throw them like greyhounds in search of the missing. La la la la la. The cook speaks from the bridge, I know who'll say, this is like hell, this is like hell. But he won't jump to the ground on this trip, and I'm not the one who says love just moves wheels and stars. And not even the ship that follows wheels of stars, not even the ship that follows wheels of stars. La la la la. Stop, everyone shouted a voice, and now heaven in hand, the captain and missile, and they'll follow instructions and there'll be nice movement, and the captain and Anna make love, and the sailor cries like the night, cause in the day is harder, and the sailor cries like the night, cause in the day is harder. Thank you. work was done. The ship moved. These are not stories, these are not stories. Look me in the face, tell me if I'm wrong. The ship moved. And the dogs got to the wounded. And the dogs arrived at the wounded. As always, it finished in the end. As always, there's a cook who makes the wrong doses. Here's my handful of salt on the cake. La la la la la. La la la la. Thank you. Wayne Scott, che nos ha cantato in inglese due canzoni che... Ero nella mia città, alzai il telefono e dissi: avete per caso il disco di uno che si dice 48? No, ma lo conosciamo bene, è quello matto. Allora mi guardai allo specchio e dissi: sono matto perché piove. Matto perché piove forte. Perché sto cercando quel show. Perché non la trovo? E dopo la voce di Wayne Scott avete ascoltato quella di Lucio 48, un frammento della sua Tripoli, dove, Sergio, prima parlavamo delle citazioni, qui addirittura c'è anche l'autocitazione. Sì, c'è l'autocitazione e non è nemmeno l'ultima. Nel suo secondo disco, Ehi là, c'è una canzone che si intitola proprio 48. Naturalmente, come sempre succede, c'è da chiedersi se sta parlando di se stesso, oppure ci sono dei versi che potrebbero indicarle, non stia parlando del 48 storico, di quali 48 diventa emblema di rivoluzione, di cambiamento, di casino. Difatti c'è un verso in cui dice: stelle, mezzaluna, l'Europa segnata in rosso dall'angelo, quasi fossimo ritornati nel 1848, dove in tutta Europa c'è un'area di sollevazione. Qui non per niente introduce due elementi che sono stella e mezzaluna, che possono apparire l'elemento di rivolta che sta attraversando tutta l'Europa. Ma insomma, Lucio 48 ha un linguaggio molto complesso, mi ricordo un po' i quadri di Dix e di Groth, quelli dell'espressionismo tedesco. Non per niente Antonio Silva, nella sua presentazione che abbiamo ascoltato qualche canzone fa, parla esplicitamente di letteratura tedesca, di cui 48 è un appassionato. Andiamo ad ascoltarci allora questo brano 48 che ci hai appena presentato. Capo del complesso cominciò a suonare, disse: la notte deve essere divertente, altrimenti la ragazza deve essere abbagliante, altrimenti. E se vuoi che sia così, mentre tuo marito dorme, scendi in giardino, guarderemo benino. balleremo un pochino, scenderemo sotto il Tevere, nel suo letto in modo che si possa ridere, ridere. Prima signorina, e se fosse dentro le tue gambe, fra le tue rive e giù, fra le tue sponde, l'ira di Dio, stella e mezzaluna, l'Europa segnata in rosso dall'angelo. 48, cosa pensi di fare? 48, quanto pensi di restare? 48, cosa pensi di fermare? Lasciaci andare, lasciaci andare. 24, non so cosa dico. 24 e non so cosa penso. 24 e mi sembra di voler dormire. Non so cantare, non so ballare. Le ragazze piangono, piangono, piangono. Lucio 48 al premio Tenco ci è venuto in varie occasioni negli anni 80. Prima abbiamo ascoltato proprio un live dell'84, ci tornerà nell'88, nell'89. C'è una grande insistenza per un cantautore di grandissima qualità, ma che in quegli anni, quando uscivano i suoi primi dischi, li abbiamo ricordati prima, nel 1983 usciva Di mattina molto presto, nel 1986 usciva il secondo album intitolato Ehi là, insomma, però di successo Sergio non ne aveva in realtà molto. Nessuno, praticamente, rimaneva un emerito sconosciuto in quegli anni, però noi ci abbiamo insistito parecchio. E raccontaci un po', insomma, avete insistito e come sono andate le cose? Come erano i suoi live al Tenco, per esempio? Qual era la risposta del pubblico? I suoi live al Tenco erano ottimi, difatti il pubblico è loro. Possiamo forse sentire un po' anche degli applausi. Ormai aveva il pubblico del Tenco, si era un po' affezionato a 48, lo accoglieva molto bene. Spesso lui cantava, quasi sempre cantava sulle basi, perché diceva non voleva la distrazione di un gruppo di altri personaggi sul palcoscenico che potessero distrarre l'ascolto. In rare occasioni si è esibito insieme ad agli accompagnatori, ne abbiamo già sentita una con D'Amato, ma faceva fatica. Teniamo presente che lui aveva anche un problema fisico e zoppicava perché era stato affetto da una poliomielite infantile. Aveva questo volto, bel volto da pugile, proprio duro, no? Quindi aveva le physique di roll per cantare questi testi. Però non è riuscito a trasformarsi in un personaggio. E aveva anche, diciamo, non aveva grande piacere in genere proprio di stare sul palco. Sono stati, in fin dei conti, eccetto appunto qualche concerto, quando è uscito soprattutto il suo primo disco, ma non molti, e le presenze al Tenco, in realtà sono stati pochi i live nella sua storia, nella sua pochissimi, carriera. Pochissimi, pochissimi, pochissimi. Ha cantato veramente pochissimo il pubblico, e quindi anche questo non ha aiutato. Ha avuto peso. Parlavamo sì, del... cioè, un po' ci metteva di lui, sì. Anche perché purtroppo, tra l'altro, Lucio soffriva di una depressione continua, quindi aveva problemi, la fatica di vivere, ecco, cioè, aveva quest'andamento, questa depressione continua, mi accompagnava. Parlavamo del tempo, andiamo ad ascoltarci un altro live introdotto da Antonio Silva e poi la canzone di Lucio 48 che ascolterete si intitola Pulito. A Michele Rambaldi, tra i tanti pregi e i tanti difetti, ha l'ostinazione, la cocciutaggine. Lucio 48 è venuto nell'84, primo premio come opera prima, poi è tornato nell'89, è ricomparso questa mattina con un disco molto importante, L'ultima nuvola sui cieli d'Italia. Io lo dicevo là dietro e lo ridico qui davanti, lo dicevo a Lucio, noi non ti molliamo perché ci piaci, ci piaci, ci piaci. L'inquietante Lucio 48. Specchio, mi ero alzato presto, il mondo era già gonfio come un pugile. Il mondo era già pieno di belle canzoni. Perché farne altre, diceva, pare, pam, e le strade bagnate come in uno specchio, l'acqua che cade nelle nostre mille minestre. Tutto sembrava mai visto niente di così pulito, pulito come uno specchio. Anch'io sembravo pulito. Come uno specchio, Laila, anche tuo amore, nonostante l'anima fangosa, fangosa. I macellai portavano veloci i quarti, le coppiette, gli algerini, gli usurai. E gli uccelli volavano bassi tra i palazzi e le uccelle com'è per natura. Inseguivano, tutto era com'era, ma solo in uno specchio. Non sapevamo niente, non sapevamo perché. Niente perché. uccelli volavano bassi fra i palazzi. E le uccelle per natura li inseguivano. Pulito, una canzone tratta dal terzo disco di Lucio 48, L'ultima nuvola sui cieli d'Italia, che uscì nel 1990. Sergio, ora andiamo a sentirci una serie di canzoni, tutte tratte dal primo lavoro, invece torniamo al 1983, il primo disco di Lucio 48, Di mattina molto presto, che hanno a che fare con, in fin dei conti, la Germania, di cui già poc'anzi parlavamo, la letteratura tedesca, l'amore per la letteratura tedesca di Lucio 48. Sì, hanno a che fare con due elementi. Uno, la Germania e comunque la cultura tedesca, e l'altro con la violenza, perché la violenza, o una descrizione della violenza. Prima parlavo del realismo tedesco, dei pittori Groth e Otto Dix, che lui sa rievocare molto bene, nei versi delle sue un po' misteriose a volte canzoni. Ci sono molti riferimenti in alcune canzoni proprio a Berlino, ci sono riferimenti nel suo repertorio a città proprio tedesche, alla società tedesca. Parlo di colonie ebraiche, ad esempio, quindi non sai mai di dove collocare nemmeno storicamente certe canzoni. Nella prima che andiamo ad ascoltare, già inizia con un verso rivelatore: quando hanno ammazzato il mio amico Mandolino. L'uccisione, l'assassinio è un tema ricorrente in Lucio 48, addirittura. Scriverà canzoni esplicite nel disco, tipo E gli assassini. Un'altra canzone che aveva scritto è proprio Assassini. Quindi l'assassinio è un tema ricorrente, l'uccisione in Lucio 48, anche se, lo vediamo, capita lì di striscio, non è che ci si butta in fondo andando a esplorare. Ma sentiamoci innanzitutto questo Mandolino. Mandolino, dal primo disco di Lucio 48, era il 1983. Quando hanno ammazzato il mio amico Mandolino, sono andato a dormire più presto. Ho sognato una tempesta ebrea. Quando hanno ammazzato il mio Mandolino, sono andato a dormire con chi gli aveva spazzato la gola, la voce, la gola. E nel mio letto c'era puzzo. Ricordo eravamo in tre nella stanza e avevamo guardato di sotto la strada, strada, strada, che correva verso la stazione, forse. Lei aveva detto che gli alberi le ricordavano il primo di maggio, maggio. Lei era... Può essere, disse Mandolino, anzi, anzi, anzi. Se guardo meglio vedo due persone che parlano dietro al pioppo, pioppo, pioppo, pioppo. E uno chiede ma è un albero. No, è solo un po' confuso. Ma lui non ha foglie, gli è difficile parlare. Comunque si può far sempre contento qualcuno e dire sì, sono. Oppure non la vedi la confusione che mi esce dalle tasche, tasche, tasche, tasche. E come comunque loro diranno, non c'entra l'inverno, il maggio, la ira, ma io dico loro, ci sta forse il vostro maggio nel mio inverno, inverno. Ci sta forse il vostro maggio, la tanana, ci sta forse il vostro maggio. Forse il vostro maggio nel mio inverno, inverno, inverno, inverno. Dura, dura, dura, la taira. Mandolino, continuiamo con questa trilogia della Germania e della violenza in una canzone che si intitola Caffè Austriaco e che è stata la prima che Piercarlo D'Amato ha ascoltato e con cui ha cominciato la collaborazione proprio con Lucio 48. Caffè Austriaco, Sergio, ci introduce un personaggio chiave quando parliamo di Germania e violenza. Certo, questa canzone che... La musica è proprio di Piercarlo D'Amato, questo testo 48 è musica di Amato, introduce il personaggio di Hitler. Naturalmente lo introduce alla maniera di 48, perché dice, beh, ma in fin di conti Hitler poteva essere anche un santo, poteva essere anche una buona persona, che ne sapeva, quando era piccolo non era ancora emerso quello che sarebbe venuto fuori questo personaggio e ce ne parla proprio in questo metaforico caffè austriaco, ci parla di questo ragazzo che non è ancora diventato quello che sarebbe diventato poi. Caffè austriaco, Lucio 48. Hitler poteva essere in fondo anche un santo, o insomma, fondamentalmente un buono. E un giorno era giovane, forse ancora un bambino, nel bar, una piccola cameriera che poi gli dissero ebreo. Gli portò un bicchiere al tavolo e il tavolo, il bicchiere e la cameriera. Uniti alla luce che entrava dal nel grande finestrone. Girarono stranamente e fastidiosamente nel suo occhio e lo costrinsero a chiuderlo per un attimo, laira, e lo costrinsero a chiuderlo per un attimo, forse ancora un bambino, meriera che poi la la la la la la, la cameriera. Con tutto l'insieme, dal grande finestrone, laia, laia. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. questa attenzione appunto e interesse alla Germania, alla violenza che abbiamo sentito tanto in Mandolino come in Caffè Austriaco, in questo caso addirittura parlando di Hitler, rimanda anche a un'altra canzone che prima avevi già nominato, Sergio, però che non manderemo in onda in questo speciale, che è Assassini, contenuta in questo stesso disco. Sì, il concetto è praticamente quello di prima della canzone su Hitler. E difatti l'assassino addirittura dice: gli assassini sono mica diversi, hanno mica sei dita e tre piedi, sono piantine come noi nei vasi, sono pellegrini come noi sui viali, eppure dicono: cosa abbiamo fatto di male, solo risolto qualcosa più in fretta, no? Ecco, questo uso della violenza per pensare di risolvere, di cambiare il mondo, era chiaramente la matrice del pensiero di Hitler, ma lo è stata di altri personaggi. E ora infatti andiamo ad ascoltarci un brano che ci dice già di chi ci parlerà Lucio 48, il titolo è Ulrike Meinhof. Abbiamo saltato fossi, color verde rame, pieni d'uva, per correre più agili su queste strade così generose di polvere, di sangue in polvere. La mia sorellina, occhi viola, né padre né madre, è stata trovata dritta in piedi e continuava a sognare, uccisa a mezz'aria da questa gente dal nome così felicemente duro, e cose che io non credevo dalle facce da preduni, così bene allineate con le loro grigie città. Rai, rai, rai. Siamo scesi dalle nostre montagne sui monti, dei grandi passi nella neve della foresta. Volevamo vendetta su queste uniformi della polizia che corrono insieme ai topi nell'alba della piazza del lago di Monaco, ma molte guardie sorvegliavano la casa del soldato. Lai la la la, lai la la la, la la la. E le guardie furono uccise, ma il soldato rise, sapendo la casa fortissima perché costruita coi nostri pellegrinaggi, da dietro la porta disse: le chiavi dovete cercarle in non so quale mucchio di colline. E io tornando ai miei monti ho incontrato un francese. Non amo nessuno perché le lenti dei miei occhi non arrivano così lontano, non fanno quasi una piega, non fanno quasi una piega, e con un trucco di nascosto gli rubai la voce, la voce, la voce. Thank you. Ulrike Meinhof, Lucio 48, Sergio, lo dicevamo prima, non ha avuto fortuna dal punto di vista di pubblico, no? Di successi con i suoi dischi che stiamo riproponendo anche in versione a volte live molto particolari, dischi degli anni 80, però suscitò fin dall'inizio e proprio anche in tutti questi anni l'interesse di alcuni grandi nomi della canzone d'autore italiana. Sì, il primo ad accorgersi di Lucio 48 fu Fabrizio De André. Il secondo che diede un'accelerazione alla sua carriera fu Battiato. Mm. Battiato commissionò alcune canzoni a 48 e addirittura fece in modo che partecipasse anche a un'edizione del Cantagiro, un'edizione a cui non riuscì a trarre nessun tipo di guadagno, di frutto, però insomma fu il segnale che in realtà non era completamente ignorato. Battiato e Giusto Pio, cioè, cominciavano a interessarsi di questo ragazzo. La canzone con cui partecipò al Cantagiro si chiama proprio Viaggiando verso Jesolo, che fa parte del terzo disco di Lucio 48. Ecco, disco che prima ricordavamo, L'ultima nuvola sui cieli d'Italia, uscito nel 1990, Viaggiando verso Jesolo. Era davvero verso primavera, c'era un sole sopra le cose della terra, quale non avevo mai visto. Forse quando ero bambino, ma era diverso. L'anziano che guidava diceva: in questo mondo materiale, in questo mondo materiale, ma perché c'è la vita? Non l'hanno ancora risolta, io penso che è finito questo. Me ne cadrò nel vuoto, me ne cadrò in silenzio, oppure, potrebbe essere anche che qualcosa lo sanno, ma non lo vogliono dire, oppure ci vuole qualcuno che sa, perché la nostra mente è il temporale. Yeah. Viaggiando verso Jesolo, canzone che presentò al Cantagiro, parlavamo prima di De André e soprattutto di Battiato, siamo alla fine degli anni Ottanta, e Battiato poi in realtà portò Lucio 48 da Caterina Caselli, e questo fu un momento, diciamo, che sembrò segnare l'inizio di una nuova fase, e in realtà lo fu, della carriera di Lucio 48. Certo, fu una tappa decisiva, perché arrivare dalla Caselli entri in una scuderia di alto livello come la Sugar Music. Il terzo disco, difatti, è prodotto da Caterina Caselli e fa parte del gruppo Sugar Music. Ma non soltanto, questa canzone che dà il titolo, e se questa fosse l'ultima, che dà il titolo al terzo disco, viene ripresa dalla stessa Caterina Caselli, che dopo non ricordo più quanti anni ritorna a cantare e incide un disco, e la punta di diamante delle canzoni di questo disco è proprio "E se questa fosse l'ultima", che lei vuole cantare insieme a Lucio 48, proprio nella speranza di imporre anche il personaggio. E fra l'altro i due parteciperanno con questa canzone anche al concerto del 1° maggio. Ci andiamo ad ascoltare, appunto, "E se questa fosse l'ultima", Caterina Caselli con Lucio 48. Questa fosse l'ultima nuvola sui cieli d'Italia, e se tu fossi l'ultimo amore della mia vita, e se questa fosse l'ultima notte, notte in Italia, notte da passare con te a prezzo della mia vita. Ma se questo fosse l'ultimo sole, sole che passa, ultimo treno che ci prende davvero, balla. Balla come sai, balla amore, non fermarti. Vorrei vederti danzare come le zingare del deserto. Vorrei vederti danzare sul tetto del mondo. Quando nasce un bambino, che faranno adesso davanti a questo vecchio che muore? Ma gli animali del deserto, le tigri del Bengala, dormono calmi anche se questa è l'ultima notte del mondo. Oh, balla amore, zingare come le zingare, vorrei vederti danzare. E se questa fosse l'ultima, se questa fosse l'ultima, se questa fosse l'ultima, e se questa fosse, e se questa fosse l'ultima. Se finora abbiamo parlato di Lucio 48 come autore, soprattutto con l'incontro della Caselli, Lucio 48 si trasforma soprattutto Sergio in autore, autore di canzoni per altri. Certo, autore con il suo sodale Francesco Sartori, che è colui che suona il piano e che ha sempre suonato insieme a lui. Avevamo parlato di suoi due amici e autori, uno è D'Amato e l'altro è Sartori. E con Sartori arriva il successo in tutto il mondo. Scrivono "Con te partirò", dalla, che diventa, come noi sappiamo, una hit internazionale grazie alla voce di Andrea Bocelli. E allora ce l'andiamo a sentire, insomma, una canzone che forse è l'unica che tutti voi che ci state ascoltando conoscevate già, ma è una canzone scritta da Lucio 48, "Con te partirò", nella voce ovviamente di Andrea Bocelli. Quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Sì, li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, manca le parole, e io solo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, io solo tu sei qui con me. Adesso sì, li vivrò con te. Con te partirò, il grande successo più conosciuto di Lucio Quarantotto come autore del testo. Sergio, ma com'è cambiata la vita di Lucio Quarantotto dopo questo grande successo commerciale e mondiale? Beh, economicamente cambia di molto, perché come lui stesso diceva, ho vinto un terno al lotto. Anche se però questo non servirà comunque a cambiare la sua grande depressione che lo teneva, e quindi anche un matrimonio andato fallito, cioè aveva delle difficoltà comunque a vivere. Ma il successo di Bocelli accompagnerà anche i successi di 48, perché non c'è disco di Bocelli in cui non ci siano presenti un paio di canzoni di Lucio 48. E la Caselli sarà così potente da coinvolgere un musicista come Morricone, e con Ennio Morricone 48 scriverà come un fiume. Tu, anche questa interpretata da Andrea Bocelli. Certo, ce l'andiamo a sentire. Come un fiume tu, Lucio 48 e Morricone scrivono testo e musica, la voce ce la mette appunto Andrea Bocelli. Lentamente scendi dentro al cuore tu, amore che vedi laggiù, la quanta strada sai per arrivare a te, strada in salita sai, ma mi fa vivere, tu sciogli l'anima che persa è ormai dietro a te. E come un fiume tu mi sarà. Come un fiume tu, Andrea Bocelli, brano scritto, almeno il testo, come vi abbiamo detto prima, da parte di Lucio 48, le musiche erano quelle di Morricone. In questi anni, parliamo della fine degli anni, seconda metà degli anni 90, l'inizio degli anni 2000, Lucio 48 scrive anche tante altre canzoni per altri interpreti, tra l'altro a Sanremo, al Festival nel 2002, una sua canzone, Amarti sì, sarà cantata da Filippa Giordano, però sono anni in ogni caso, Sergio, per quanto insomma la sua situazione economica sia un po' migliore, dove da un lato non continua più a incidere come negli anni 80 dischi suoi, men che meno a suonare, e dove tra l'altro la sua situazione di salute continua a peggiorare. Sì, sì, ma abbiamo sempre avuto tracce in tutta la sua vita di questa situazione di salute un po' precaria, soprattutto, e ne aveva lasciato tracce persino sul palco del Tenco. Nell'88 arriva al Tenco, ma per una serie di disguidi non ha con sé le basi, e quindi si mette a cantare usando un secchio di plastica. 3 anni prima l'aveva fatto Tom Waits, che aveva chiesto un incudine, un martello per cantare soltanto a incudine del martello, Spanish Walker, e lui, non dovendo fare una cosa, fa una cosa un po' simile, chiede un secchio di plastica, quello delle pulizie in cui ci si mette dentro l'acqua, e un bastone, e percuotendo questo secchio ripropone una canzone. La canzone era quella proprio di Tripoli, di cui noi abbiamo già sentito un pezzettino precedentemente, quello in cui si presenta, come avete il disco di Lucio 48, sì, quello un po' matto. In questa versione questa parte non c'è. Sentiamo come cosa ne è uscito fuori al Tenco. Tripoli, accompagnato da un secchio di plastica, mi ricorda un po', Sergio, anche la sedia con cui si accompagnava Enzo Del Re in fin dei conti. Lucio 48 al Tenco del 1988. Un'altra rima, questo 8 appare continuamente. Poi ritorniamo qui insieme a te, perché ci stiamo anche avvicinando alla fine di questa puntata di Zibaldone. Amilcare Rambaldi è un vecchio ligure testardo, come ama dire di se stesso. E quando crede in un personaggio ci insiste fino a quando il personaggio non viene fuori. Lo ha fatto con Davide Rondino, lo ha fatto con Paolo Conte, lo facciamo ora con Lucio 48, che sta preparando un nuovo album. Anzi, Lucio avrebbe voluto fare qualche pezzo in più dal nuovo album, ma un problema tecnico di basi ci impedirà di farvi ascoltare tutti i pezzi del nuovo disco. L'importante è che Lucio sia... Tutti! Lucio 48! Sì, volevo dire, io ringrazio Amilcare Rambaldi che crede in me, e sono io che non credo più in me, purtroppo. È bello però sentire che ti applaudono quando dici delle cose negative. Ah, incoraggiamento. Ma io vorrei darlo anche agli altri, cioè, non so, vabbè. Comunque, la prossima canzone è nuova, non è, purtroppo non sono arrivato con le basi perché per motivi tecnici, e si chiama Tripoli, e ritengo che sia molto importante per me, perché è proprio un cambiamento totale di atmosfera. Purtroppo ho separato, non potrete sentire la musica o sentirete la mia abilità. In questa canzone si fa molto uso di anima, della parola anima, e io ho notato che nelle canzoni degli ultimi tempi, e penso anche non solo gli ultimi tempi, questa parola è molto usata, ma penso che ben pochi sappiano che cos'è. Io ad esempio non lo so. Questa canzone si chiama Tripoli. È già da qualche anno che mi dico devo andare a Tripoli, ma per motivi non turistici, semplicemente ho perso l'anima. E sulla strada il signor Einstein, già tutto già pieno di cimici, che mi diceva fra le formule, e se per caso fosse a Rimini. Ma sulla strada mia di Tripoli, oltrepassato il signor Einstein, oltrepassate le sue cellule, restiamo soli amore io e te. Davvero poco chiara sei, anche un poco strana sei, in questa sera che c'è, qui al largo delle Tremiti. E sto dormendo solo un po', davvero solo un po', ma lei dà fuoco alla mia testa, accende e spegne, ma quanto è grande Tripoli. C'è poi qualcuno che sa dirmelo? E poi è solo un alito? Ho un fuoco tanto grande che trovarmi l'anima è impossibile. Quanto parlare col mio passero, ma se non li incontro adesso io so che finisco in qualche parallelo carnaval. Grazie, arrivederci. Eh sì, Sergio, lo hai detto tu bene prima di ascoltarci questa versione live di Tripoli di Lucio 48, insomma una persona in quel momento che già non credeva più in se stesso. Sì, non credeva più in se stesso e questa sfiducia nel mondo, nelle proprie capacità, nell'incontrare se stesso, ritrovare un equilibrio all'interno, l'ha sempre accompagnato finché il 31 luglio del 2012 decide, dopo due tentativi precedenti, negli anni precedenti, di suicidio, di farla finita sul serio e si getta dal sesto piano della sua casa di Marghera, dove viveva con l'anziana madre e con una badante, e risolve definitivamente i problemi che l'hanno sempre accompagnato nella vita. E anche per questo, visto che tra poco ricorre il decennale della scomparsa di Lucio 48, che abbiamo deciso proprio in questo 2022, all'inizio di quest'estate del 2022, di dedicare questa puntata speciale di Zibaldone. Sergio, fino ad ora abbiamo parlato di tre dischi di Lucio 48, che sono quelli usciti negli anni 80, Di mattina molto presto, I là e L'ultima nuvola sui cieli d'Italia, che in realtà è uscito nell'anno 1990. Abbiamo parlato delle canzoni che ha scritto come autore in collaborazione con Caterina Caselli, poi con Andrea Bocelli e anche Morricone. Ecco, però recentemente è uscito in realtà un quarto disco di Lucio 48, un disco a cui lavorava da tempo prima della sua morte, che però non aveva mai portato a compimento. Ma è un disco, guarda, io di questo disco sapevo, l'ultima volta che ho visto qua Lucio 48 nella mia vita è stato nel 1989, e abbiamo cenato assieme e c'era Piercarlo D'Amato, c'era Tony Verona, c'era lui, e parlavamo di questo progetto, di un nuovo disco, che poi so che era cominciato, ma Lucio stava male, interrompeva, insomma non riusciva ad andare avanti. E Tony Verona dopo sei anni ha tentato di tirato i remi in barca, ha detto vabbè, cioè non ce la facciamo, e ha rinunciato. Il disco non ha avuto più nessun seguito, ma aveva fatto sentire una canzone che voleva, forse l'aveva anche fatto proposta a Fiorella Mannoia, ma che insomma non, progetto che naufragò, e non seppi più niente, non ho saputo più niente di questo disco, se non che poco tempo fa Piercarlo D'Amato ha deciso di pubblicarlo. È un disco veramente in... cioè è stata una sorpresa per me. Non so nemmeno come sia riuscito il materiale, se ha messo delle basi, ha finito le basi dopo. Comunque c'è la voce di Lucio in questo disco che è stata una gradevolissima sorpresa per me. E allora andiamo a ascoltarci, Sergio, questa canzone che si intitola Guarda me. Sì, scegliamo questa canzone perché è una canzone di assoluta, apparentemente, di spensieratezza, di ottimismo, ecco, però invece era proprio, viveva con, era stata scritta nei suoi periodi peggiori. Guarda me, Lucio 48, l'ultimo album uscito postumo da pochissimo, grazie al lavoro del suo collaboratore storico Piercarlo D'Amato. Sei lì in attesa per ferirmi con le parole, ma come il sole non cala mai. Prima di sera, così non puoi pugnalarmi in una giornata nera. Perché guarda me, guarda me, guarda me. Voglio essere forte, molto più forte di te. Dai ra ra, dai ra ra, dai ra ra. Lo so che questo tempo è da stracciare, invece del silenzio dovrei parlare, ma che ogni parola è dannazione, può portare lontano dalla vita. Forse non basta nemmeno una canzone, forse non basta nemmeno una canzone. Ma guarda a me, che non sono figlio di un re, che mi verso in cucina il caffè, che intanto cerco con gli occhi sopra i tetti se la giornata è buona, ma intanto so che se bussi alla porta io ti aprirò, perché ho voglia con te di partire per Roma. Correre e cantare, non fermarmi mai, anche se il mio cavallo è ferro e beve tutta l'acqua del mare. Quando arriva dicembre, l'inverno è preso al volo, nelle notti di neve il cuore si ferisce da solo. Ma se tu sei con me, anche se non sono figlio di un re, io ti verso in cucina e caffè e guardo sopra i tetti l'inverno finalmente svanire, perché è tempo, tempo di partire per Roma. Guarda me, Lucio 48, siamo ormai proprio alla fine di questa puntata di Zibaldone, da questo nuovo disco, l'ultimo disco uscito postumo, come vi ricordavamo poc'anzi, che raccoglie le canzoni scritte da Lucio 48 dopo quelle contenute nei suoi primi tre dischi, di cui abbiamo parlato a lungo quest'oggi. Sergio, noi ci salutiamo in realtà con un'ultima canzone, quella che chiude proprio questo disco, il titolo è Alba arriverai. Sì, un titolo molto misterioso, ma è misterioso tutta la canzone. Non sappiamo se è frutto di un momento così di speranza e ottimismo, o seppure il riferimento è alla soluzione finale. Ascoltiamoci, come sempre, Lucio 48, sono possibili tutte le interpretazioni. È un punto interrogativo. E con questa canzone anche noi chiudiamo la puntata di Zibaldone. Vi ridiamo appuntamento la prossima settimana, come sempre dalle 18 alle 20 qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. Vi ricordo che potete scaricare tutti i podcast del nostro programma dal blog zibaldone.contrabbanda.org. Voglio salutare e ringraziare Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco di Sanremo, che ci ha accompagnato in questo speciale dedicato a Lucio 48. Sergio, grazie davvero, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi. E qui chiudiamo con Alba arriverai questo speciale su Lucio 48. Ci auguriamo che abbiate potuto conoscere meglio, scoprire per la prima volta questo grande cantautore e compositore veneziano. Era nato nel 1957 e purtroppo ci ha lasciato proprio 10 anni fa, il 31 luglio del 2012. E per questo, in questo decennale, abbiamo voluto dedicare la puntata di oggi di Zibaldone a Lucio 48. Alba arriverai. Buonasera a tutti. Alba arriverai, no, non mi lascerai più solo, no, oh no, in questo gelo, no, in questo freddo, no. Alba apparirai con le tue luci e il sole ancora là, più là, in questa notte che no, non si ferma mai. E il mondo sai, cammina già coi suoi stivali su noi, calpesta i sogni, calpesta il cuore, e non è proprio amore, sai, sui marciapiedi per monti e valli, oh Alba te ne andrai, no, non mi lascerai, la tua luce no, lo so, forse negli occhi tuoi, se guardo ancora un po', e il mondo sai, cammina già sul nostro teatrino, su noi, calpesta il cuore, calpesta il sangue, e non è proprio amore, sai. Stephen Forti.